2009 questo. No, stai andando furtivo, vabbè, tu arrivi sempre forte qua, sei oltre 9 più 30 qua, qui. Non ho mai avuto problemi a riceverti a te, arrivi fortissimo. Ma PMR, tornando al discorso PMR, a me non mi è mai piaciuto, è una cosa secondo me inutile, va bene soltanto per dire se lo usi per cose lavorative, per dire sei un geometra in cantiere, devi andare a fare dei rilevamenti, cose del genere, oppure c'hai un terreno grande, una campagna, un appezzamento di terreno dove per dire c'è il trattore da una parte, poi c'è il tipo che ti fa altri lavori e vuoi essere in comunicazione, va bene, ma usarlo così al posto della CB secondo me è una cosa, non ha senso, dai. Abbiamo la possibilità di andare molto più lontano con la CB, tutti abbiamo le antenne al baracchino, con quello fai 300-400 metri, a meno che non ci metti potenza, ma proporzionalmente a parità di potenza il CB arriva 10 volte più lontano. Lì un po' devi caricare, se non 4 watt sono poche, magari 20, e comunque l'altezza lì dell'antenna è determinante. Io è come che fossi in antennino fuori dalla finestra, infatti poi quell'antenna la uso per il ricevitore, boh. Alla fine poi c'è un altro discorso che i Baofeng hanno un ricevitore che si desensibilizza quando gli metti antenne, più performanti sono più si fa sordo, prende i colpi da tutto, tutto quello che fa radiofrequenza gli tronca i segnali, ti tronca i segnali medio-bassi, te li annulla col Baofeng perché è economico. Col Voxun già cambia discorso, col portatile, poi se usi veicolari di marca il problema non c'è, dai. Ci vuole un filtro passabanda, diciamo, perché ti tira fuori quelle broadcasting. Se ti dico con che potenza, guarda, l'altro giorno mi ho scaricato un programma dove ci sono tutte le potenze di tutti i punti trasmettitori del mondo, dalla M alla FM, a DAB, TV, eccetera. Se ti dico con che potenza escono le radio da Monteoro, io sono rimasto scioccato. Ma le radio FM? Le radio FM, abituato ai tempi miei, quando noi avevamo i trasmettitori di certe potenze, adesso se ti dico con cosa escono ti spaventi. Un kilowatt, 3 kilowatt, 5 kilowatt. Allora, quella più forte di tutti, su 102, è radio dimensione suono, lo sai con quanti kilowatt esce la Monteoro? Di una potenza. Io 5 kilowatt già mi sembra una follia in quelle frequenze. Esce con 50 kilowatt da Monteoro, la stazione più potente di tutte. Vai tu, già lo credo che i Bao Bao si desensibilizza, ma porca miseria. E 50 kilowatt, ma qui siamo a livelli di broadcasting AM, cioè di quelle emittenti in AM sui 9-10 MHz e dintorni. Allora, se ti dico con quanto sta uscendo la RAI, che la RAI usciva con 10 watt sino a 30 anni fa, lo sai con quanto sta uscendo la RAI? RAI 1, RAI 2, RAI 3 radio stiamo parlando. Spara. Che è una delle più basse in assoluto, 4 kilowatt. Ciao Maria, 4 kilowatt intorno ai 90, vabbè io faccio la media, 98 MHz per essere a metà della banda FM. Vabbè, ma l'altra è allucinante, l'altra è veramente allucinante. Vabbè, allora, ma loro non hanno un limite per legge, no? Possono usare quello che vogliono fino, vabbè, ci sarà un limite. Allora, c'è solo un limite di campo elettrico, tu a, non so se la distanza è a un chilometro, i rapporti sono a un chilometro, non devi superare, mi sembra, i 6 microvolt per metro, una cosa del genere, adesso non ti vorrei dire fesserie, però la telefonia è così, non solo le televisioni e le radio se hanno dei valori più alti, probabilmente sono più alte, la telefonia non devi superare nell'arco di 100 metri 6 microvolt per metro, forse le radio sono un po' più alte, ti hai presente, le radio normalmente hanno una postazione un po' lontano dal centro abitati, sono in posizioni abbastanza alte, lo sai la RAI da quanto esce dall'Imbara, RAI 1 all'Imbara, di una potenza sparata. 10 kilowatt. 130 kilowatt. Ciao Maria, non pagheranno niente di luce, no. Guarda, Radio Venere, che non è niente di particolare, nel senso non è a livelli di RDS, esce con 6 kilowatt e 3. Aspetta, bella robetta, Ok. Poi le DAB, vabbè, per le DAB, altre frequenze, non so come, che potenze possano usare lì. A parte non c'ho nulla, nemmeno una radiolina DAB per far prove di ricezione, nulla. Ne vendevano anche da Cosomi, radioline da tavolo, da Lidl, ho fatto quasi, poi ho detto ma cosa me ne fotti. Finché non sopprimono la 8808 non conviene spendere nulla. Allora, il DAB io me lo sono preso proprio da Lidl e ti posso dire, per quello che l'ho pagato è eccellente, perché c'è anche un display, un piccolo monitor, non è ad alta definizione, però è chiaro, dai. E vedi la stazione che sta trasmettendo, c'è il disco, la copertina del disco che sta trasmettendo, le informazioni sul disco, brano, durata, eccetera, eccetera, brano successivo, brano precedente, è veramente utile quella roba lì. Tieni presente che tutti i segnali arrivano da Monte Alvaro e sono di 1 kW la potenza, per cui vengono schiacciati da altri disturbi. Ah, da Monte Alvaro, non Monte Oro. Sì, proprio quella che hai descritto tu, si vedeva come un logo, praticamente la copertina dell'LP, vedi il titolo della canzone, carina era quella radio. Poi io sempre legna verde ho detto, usami non futti, per non spendere, per tircheria, invece, ma la faranno l'offerta prima o poi. Purché la copertura però cominci a estendersi, perché sennò se per ricevere devo andare a Carbonazzi con la radiolina attascabile, no, non va bene. No, guarda, ti posso dire, diciamo, scenderanno tantissimo di prezzo, perché adesso ci sarà come digitale terrestre, i decoder te li tirano a faccia, i televisori, lo stesso, c'è stato un abbassamento di prezzi, il DAB è ancora un sistema abbastanza innovativo, dai, ancora poca gente, ancora, nella maggior parte non sanno neanche che esiste, diciamo, quelli, gli ascoltatori, dai, io sono appassionato per quello, cerco sempre di essere innovativo, nel senso di essere informato di tutto, eccetera, eccetera, però ti posso dire, va più che bene. La sorpresa spaventosa l'ho avuta con una radiolina cinese, da pochi, mi pare ho pagato a 65 euro, che c'ha anche le bande, come si chiama, radioamatoriali, c'ha le bande aeronautiche, poi c'ha 8808 e c'ha la 27 pure, tranne non ha la banda laterale. Ieri proprio, siccome questa è bella perché c'ha anche l'indicatore di potenza del trasmettitore, ho fatto le prove sul campo per vedere a quanti decibel arriva il segnale di cosa, di tutte le radio, e infatti ha confermato quello che dicevo io, che ho letto io, che la più forte di tutti in assoluto è RDS da Monte Oro con 50 kW, le altre sono molto di meno, diciamo, non eccessivamente, ma qualcuna molto più bassa. Ce n'è una addirittura da Coso, Radio Coso, esce con 500 watt da come si chiama, da grattacielo, e ha avuto una sorpresa con poca potenza, tra l'altro, con quell'antennina in dotazione a quella radio lì, col DSP inserito, ieri sono riuscito a riceverla. Tieni presente, con l'ICR7000, antenna esterna, ho grosse difficoltà a riceverla, con quell'antennina e DSP inserito sono riuscito ieri a riceverla. Sì, anche queste mi copi così, ho messo tutto al minimo perché scalda. Accendi quello che ti ho detto. No, dico, mi copi? Certo che ti copio. Qua non sale lo smitter, se non modulo non sale, qua scalda troppo. Guarda, ce l'ho ancora la foto di quella radio che riceve la 27, che la riceve anche in modo pauroso. Somiglia al Texun 660, solo che quella è tutta un'altra cosa perché ha la banda laterale, eccetera. Poi alla fine mi sono stufato anche di ascoltare l'HF, però. Una volta andavo in macchina con l'antenna proprio tarata per 10, 20, 40, 80 metri, poi mi sono stancato anche di quell'hobby e ho lasciato perdere tutto. Sto vedendo anche un bel di roba SDR che usa antenne strane, antenne attive, roba piccola, minuscola, che dico, ma se uno ha l'antenna dentro casa non prende QRM, disturbi vari, cioè non è sempre meglio avere un'antenna a costo che sia verticale sopra il tetto, boh. Allora, queste antenne attive, io ho fatto proprio ieri, abbiamo fatto una prova in officina con l'antenna attiva per una banda broadcasting, senza amplificatore e con l'amplificatore, tu vedi la differenza di segnale spaventosa, cioè una cosa spaventosa. Infatti io ho parlato con un amico giù che non è neanche in Italia e lì sono tutti i radioamatori con le antenne attive, tu devi vedere la resa di queste che hanno degli amplificatori e dell'antenna, per cui in ricezione funzionano alla grande, a cosa, iniezione di, come si chiama, hanno degli amplificati, poi i vecchi convertitori delle antenne paraboliche, per dire, quelli 10 anni fa c'erano una figura di rumore allucinante, adesso arrivi a 0,1 normalmente come figura di rumore, e così sta succedendo con queste antenne attive, tu devi vedere la resa di quelle antenne, a parte che sono calibratissime su quella banda di frequenza che le devi utilizzare, per cui non hanno dei filtri, non vengono influenzate da frequenze adiacenti, ti sto dicendo una cosa spettacolare. E ho fatto una prova proprio ieri in officina su banda broadcasting con un'antenna attiva all'interno dell'officina, dove cacchio non prendi niente, cioè, ma ho mi attaccato quello, infatti ho detto vai che ti amplifica il segnale, cioè il QRM, invece ti posso dire dal giorno alla notte è cambiato. Vabbè, sono fatte bene, cioè non è solo un mini antennina e un amplificatore, c'è tutto un sistema di filtri e controfiltri per pulire il segnale. Ho visto anche prezzi, certe hanno prezzi molto elevati, porca miseria. E hanno sempre questa antenna tipo, come che si chiama? Loop, no? Tipo cerchietto, loop, sì. Sì, quelle circolari sto parlando, ma hanno delle rese spaventose, cioè paragonate alle antenne di dimensioni molto più grandi, antenne passive parliamo, non attive. C'hanno un guadagno impressionante, però è inutile avere il guadagno se poi ti porti appresso anche i disturbi, c'hanno dei filtri allucinanti, c'hanno delle tecnologie aerospaziali, per cui con dimensioni ridottissime tu c'hai delle rese spaventose, come, ti ripeto, come è successo ieri col DSP, col sistema digitale per l'eliminazione del QRM del coso, ti toglie tutto il QRM e ti amplifica il segnale, è riuscito a tirare fuori una radio che sfido a chiunque, se c'è tempo, prova a ricevere una radio su 93 MHz, che io per riceverla devo mettere dei filtri eccetera eccetera con l'antenna esterna, con l'ICR 7000 ho difficoltà, mentre con l'altro ricevitore, quello professionale, riesco a tirarla fuori bene, non ho nessun problema, però questa con una radiolina da 60 euro col DSP tutto digitale sono rimasto scioccato, non è possibile, ma pare che ho giocato, lo riceve meglio del 7000. Nuove tecnologie, d'altronde l'ICR 7000 è di almeno un ventennio fa, adesso sì, stanno facendo tutta questa roba piccola, miniaturizzata, alta efficienza. E via. Poi vabbè, mi stavo guardando anche questi SDR, però a me non mi ci va la, questa cosa di dipendere dal computer per la radio, due cose differenti. Guarda, a quel livello preferisco ritornare a pigliarmi quel ricevitorino che avevo già avuto, quel famoso, te l'ho nominato prima, il Texun 660. Puro ricevitore, però non voglio avere computer di mezzo, mi rode il se, quindi computer per computer mi ascolto quelle radio SDR online tipo Roma 4 capito? Non si sì, aspetta, c'era forse qualcuno che stava chiamando avanti, chi è, voleva entrare? Ma chi sei, Gianfranco? Ah, Roberto Valghero, ciao, ben sentito Roberto. Sei bassino, c'è un po' di corrente alto, ciao. Sei Santiago, sì, la radio ti tiro fuori, però un po' difficoltoso. Dai, tu mi ascolti? Ok, dai, mi hai sentito comunque, non so se ti abbia ascoltato Marco, hai ascoltato Roberto D'Alghero? No, lo sento, ma è nel QRM, c'è una rumorosità terribile oggi. Potremmo tentare in USB, vediamo se riesce a passare. Vabbè, qua USB c'avevo problemini io con questa radio, devo fare dei lavoretti. Cosa hai detto Roberto? ma puoi alzare un pochettino anche la radio, se non dico la potenza. Io adesso ti tiro fuori 6-3-4 di radio, in modo che ti possa ascoltare anche Marco. Non è cambiato più di tanto, sempre Santiago, sì, radio 3-4, sì. Purtroppo Marco probabilmente è una condizione un po' meno favorevole rispetto a me per Alghero. Ok, Marco, no, stavo dicendo, io stavo pensando com'erano le radio 30 anni fa, quando le radio private, quando c'avevi 100-200 watt, stavi già andando alla grande. Cacchio, ho visto le potenze e mi sono rimasto scioccato. Cioè la radio meno più scaccinata di tutti, quella che trasmette da cosa, dal grattacielo, c'ha 500 watt. E prima usciva con 130 watt. Radio Zero l'ascoltavi da tutte le parti. C'è Radio del Golfo, c'ha 20 kW da Monte Alvano, cioè cose fuori dal mondo. E non parliamo di radio nazionali, ci sono radio nazionali che hanno 400 kW, radio, se vai a Milano in postazioni particolari, c'è gente che ha 400-500 kW di potenza. Vabbè. Dimmi qua. Buonasera a tutti, non so chi ci sia. Questo è praticamente, siccome c'ha due agganci, uno è a 4 e questo è l'MB più 5, mentre l'altro che ti ho fatto sentire, l'altro aggancio è l'MC60. Va bene anche l'MB più 5 col 950? Allora, va bene nel senso che la radio è chiara, però non ha paragone con l'altra. Questa è molto nasina, sembra che c'hai il naso raffreddato. Comunque ti ascolto, si è abbassato un po' di segnale, ti ho sentito un po' più basso. Sì, vabbè, in posizione love l'ho messo, dai, poi ce l'avevo in posizione media perché c'era propagazione. Ho capito, non so, mi hanno detto che va molto bene anche con l'MB più 5. Sì, no, no, Claudio, ripeto, non è bella la radio, chiarissima, niente da dire, però non è naturale come l'altra, l'altra è molto più naturale, questa ti sento come quando ti metti le dita nel naso, un po' nasino, mi così che parli così. Comunque c'è anche Roberto D'Alghero, te lo rilancio, vediamo se l'hai sentito, penso di sì, assolutamente. Vai Claudio per Roberto. E Roberto mi sente anche con 10-5 watt. Robe, ciao, buonasera, ma sono in chiusura, era giusto per farti ascoltare, magari vuole regolato un po' più il tono, ma adesso non c'ho tempo, dai. Avanti Roberto, ciao, buonasera, ma vi lascio, avanti. Radio bassa, la madonna, se mi ascolti basso di radio allora sono al 100% di modulazione. Di segnale qua. Fuse una bomba. Ciao Antonio, ben sentito io, però signori adesso vi devo lasciare, mi dispiace per Antonio che è appena entrato. Ciao Antonio, ciao Roberto D'Alghero, ben sentito dopo tanto, ciao Marco Lì, come al solito, dai, sempre piacere ascoltarti, sono belle conversazioni, ciao Claudio, ci sentiamo con calma in altri momenti. Io chiudo e devo andare a mangiare, ciao ciao a tutti. Ciao Robè. Dai, che ho messo in posizione media perché ero in posizione love, così mi ascolti meglio Robè. Vabbè, ci avevo neanche 5 watt, 8 watt, dai, una cosa del genere, adesso sto andando con la potenza media, questo è un Barrett 950 SSB, c'ha 3 potenze, quindi ce l'avevo in posizione locale, diciamo, dai. Va bene, ciao Robè, saluto di cordialità e ci sentiamo alle prossime, dai. Non so se vuole regolato come Tony questo microfono, perché questo è il secondo ingresso della posizione a 4, mentre l'altro è a 8, quindi è Kenwood. Va bene, avanti Robè, poi mi dici, puoi andare via, vai. Non lo so, boh, c'è la Canaria, non lo so. Marco, va bene così per te? Eccellente Claudio, eccellente, qua problema nessuno, sì Roberto non passa, poi sento stessi spagnoli che fanno capolino e lo coprono anche, c'è anche Bombolo, ciao Antu. Buonasera, tengo gli spagnoli, ne ha tanto in occhio. Sì, anche qua si sentono, dai, va bene. No, no, perché Roberto mi ha detto che non ha niente a che fare, che vabbè, quello là è un M60, questo è un MB+5, però ti posso garantire che la modulazione è buona, molto buona e va molto bene. Adesso come potenza siamo intorno ai 20-30 watt o vabbè. Vabbè, poco fa c'avevo la posizione minima proprio locale qua per Sassari, adesso ho tirato un po' sulla potenza, questa radio arriva sino a quasi 200 watt in AM, quindi non ho grosse difficoltà, quando devo aumentare aumento. Va bene, allora cambio per Marco, ciao Anto, buonasera, ben sentito, dai. Buonasera anche a te, oh qua sei una bomba cra. Vabbè, me l'avete già dato il controllo con questo tipo di microfono, dai, perché questa radio, ripeto, c'ha due ingressi, una 8 e una 4. In quella 4 c'è l'MB+5, in quella 8 c'è l'MC60, quindi è chiaro che la modulazione cambia, però diciamo che questa va molto bene, a me piace tantissimo, mi sono ascoltato, va bene. Vai Marco. Ehi, a prima ho notato quando eri più basso di segnale, quando ho ripreso, due volte che ho ripreso sotto c'era come una portantina, faceva ti, ti, ti, ti, e poi ho sentito il discorso ieri, insomma ancora non ne siamo usciti dalla fase portanti, allucinante. Ma la ragione per cui, l'ho spiegato anche a Gianni, la ragione per cui ci stiamo un po' trasferendo da altre parti, perché veramente è una cosa molto molto sgradevole da dire e da vedere, da sentire, perché insomma siamo quattro gatti che facciamo a turno per ascoltarci e per entrare, per tenere alta la frequenza, e ogni tanto, non dico tutti i santi giorni, ogni tanto c'è una portante, ma ripeto, tu mi conosci, io non ho grandi difficoltà in trasmissione, ci vuole ben altro per magari darmi fastidio, però il problema è che la mettono in ricezione. Ieri c'era Franco che voleva fare due chiacchiere, Franco California, e lo coprivano, mentre a Luca e a Tino non le faceva assolutamente niente, quindi abbiamo continuato a parlare, però secondo me non è una cosa bella da fare. Se uno ha un problema si affronta di persona, si chiacchiera, se ci sono dei diverbi si mettono a posto, ma non va bene che uno debba disturbare il QSO, non va assolutamente bene, sono cose che io non accetto più, ed è per quello che quando c'è la portante io non sto neanche a discutere, chiudo e me ne vado in altre frequenze. Grazie a Dio posso trasmettere da qualsiasi parte, quindi non ho da bisticciare con nessuno, Marco, capito? Sono solo un malato di mente, basta, ma cosa ne hai di metterla? Poi è così bello chiacchierare, cambiarsi le chiacchiere, tu poni la portante, ma che vai a fanculo, vai, ma che persone sono queste? Via di Giacciara, la verità, io ho comprato la radio per chiacchierare, non mi piace fare queste cose, io adoro chiacchierare. Sì, ma la teoria mia, nel pomeriggio era entrato Gianni, poi Gianfranco, la teoria mia è che sia gente zona Covid che ha dissotterrato baracchini vecchi, che magari aveva qualche catarro di antenna da 20 anni. E la mia teoria è che sia gente comunque che non entra a parlare né sul 10, né sul 23, né in PMR, però mettere portante, capito? Oh, sono uscito in radio, sì. Sì, scusa che mi sono allontanato un secondo, Marco. Sì, ma sono d'accordo con te, ma se vi ricordate, scusa che mi siedo, ecco qua, se vi ricordate, io quando c'è stato il boom della gente che è entrata, a me ha fatto piacere, fa piacere se entra altra gente, per carità, però se vi ricordate avevo detto che era un boom temporaneo, nel senso che chiaramente eravamo costretti a stare a casa, molta gente dalle cantine, dagli armadi ha tirato fuori i baracchini e praticamente si è insomma rimessa a trasmettere, perché no, fa piacere. Il fa fatto che poi ci hanno dato il via a uscire tutti al Pascolo Brado come siamo, qualcuno l'ha staccato il baracchino, l'ha riconservato, qualcuno l'ha lasciato per rompere le palle, e il discorso è questo, Marco, capito? Però ripeto, non va bene perché non stai disturbando il singolo, stai disturbando tutta la gente che sta parlando, capisci? Sì, fate di gabbo e bu. Vabbè, dai, io devo fare un attimo di bianco, riprendo fra un po'. Ehi, Anto, sì, è vero, è vero. Alla fine, se c'è con uno, blocchi tutta la ruota, è inutile, è inutile. Oh, yeah. Poi già sto entrando poco a causa, vabbè, cose commissione, raffica, poi mal di schiena e altre cose, insomma. No, oggi era tranquillo comunque. C'era una propagazione, io ero sul 27 con uno di Polignano a mare, mai vista, solo che era troppo sporadica. Cioè, il segnale di botto appariva e poi scompariva di botto. Infatti, ciao Anto, buona serata, saluti e buona cena, buon tutto, cordialità anche a casa, dai. Sì, anche noi eravamo sul 23, io Giulio, c'era Graziano, poi è entrato anche Roberto, abbiamo fatto diverse QSO con un po' centro-sud Italia, diciamo, nord, forse sì anche nord Italia. Però molto molto sporadico, perché addirittura c'è stato un momento che mentre parlava è sparito completamente e addirittura non sentivamo più niente, poi è riapparso la modulazione, quindi è così. Però ti ripeto, sì, ci sono dei giorni dove chiaramente due chiacchiere si possono fare, a me fa piacere farle, per carità, io sono qua per questo, per divertirmi, far divertire se possibile e fare due chiacchiere e parlare di più o meno, ma quando sono importanti io, Marco, non le sopporto più, non sono più come i vecchi tempi che andavo proprio di botto. Ah, mi stai mettendo un portante, perfetto, adesso te lo faccio vedere io, qui, là, attacchi, fai, non me ne frega più un cazzo, lascio perdere, c'ho altre radio, c'ho altre frequenze dove posso trasmettere, mi sposto, poi se vogliono disturbare che disturbino, perché a un certo punto non è che puoi stare a 60 anni a continuare a farti sangue cattivo per la radio è bella, è un hobby che abbiamo tutti, se lo sappiamo usare lo usiamo, altrimenti pazienza, cosa vuoi ti dica? Era un bel hobby, magari 20 anni fa, 30 anni fa era una cosa anche più diffusa, adesso proprio mosche bianche, nonostante ciò, vabbè, poi vabbè, concordo con te su una cosa che hai detto ieri, no, vabbè. Cioè, tu ascolti, io quando parlo in faccia, non è che ho peli nella lingua, a qualcuno piace, a qualcuno no, quindi si difende magari con la portante perché non riesce a controbattere o a metterci la faccia, io parlo in faccia, cioè ci sono persone che veramente insomma usano la radio solo per rompere le palle, ma non dico qua in 27, non dico in VHF, in UHF, ma in generale, che da tutte le parti tu vai ad ascoltare un bellissimo QSO, stai ascoltando un bel QSO in HF, a un certo punto entra quello, inizia a fischiare, inizia a parlare sopra, ti si mette a accordare sopra, ma perché? Perché non ti piace il QSO? Perché sei geloso che loro stanno parlando? Non capisco questa cosa, capito? Se uno ha un problema, si affronta, se uno sbaglia può chiedere scusa, ho sbagliato, sbagliare è umano, ma non bisogna comportarsi in questa maniera, perché ti ripeto, ribadisco, non stai disturbando il singolo, stai disturbando persone che sono entrate per fare due chiacchiere e per ammazzare un po' la giornata, no? Come noi pensionati, ecco, tutto qua, e non va bene. Cazzo, gente, parata, gioia. Già sei poco veloce, Anto, io te l'appoggio, claro. No, io mi riferivo a un'altra cosa, che appunto, che a me non piace entrare su 23 perché sembra essere di troppo, no? Anche tante volte entrate lì e ricompare gente dall'altra parte, entrate dall'altra parte e ricompare dall'altra, è come se, vabbè, basta, già hai capito. Sì, ma io non ne ho problemi, hai visto, l'ho detto tranquillamente. perfetto, se stiamo disturbando ci spostiamo, però oramai siamo un po' unificati, capito? Mi dispiace appunto che Gio Maria stia entrando poco sul 23 perché ha un problema in antenna, penso che disturbi, non lo so, però ci spostiamo un po' al 10, un po' al 23, quindi come stiamo facendo, però quando chiaramente io mi accorgo che c'è qualcosa che non va, lo dico, non è che ci stiamo estremando, per carità, siccome c'è una lieta abitudine di fare una chiacchierata tra di loro, eccetera, è giusto anche che noi ci spostiamo sul 10, eccetera, va bene Marco, ma non è un'offesa per nessuno, per carità, una critica, è una considerazione che io ho fatto, di giusto farla, non è che non si possa fare, è giusto così, quindi non, però io parlo sempre tranquillamente in radio, quello che penso dico, non ho peli nella lingua a esprimere il mio parere, può essere giusto o sbagliato, però c'è la libertà di parola, quindi ognuno può dire ciò che le piace, chiaramente se ne assume le sue responsabilità, è giusto così, no? Vai Anto, cosa stavi dicendo? Dicendo che sono solo gente imbecille, sono, ma cosa ne esci di mettere la portante? Ti fa ridere, ti fa... Cioè, ma uno non può entrare, break, buonasera a tutti, sono Tizio Caio, o fa vita di Milizzane, o fa vita di Astigosi, cioè, come si dovrebbe fare? Cioè, ma perché mettere questa portante? No, non riesco a capire. Cioè, uno parla del più del meno, parla. Non capisco cosa ne ho, ho fatto i sacrifici per comprarmi questa radio e per avercele, ce l'ho già da tanti anni, ma se io pure nella casa nuova, per dire, mi pongo il radio e mi metto l'antenna per rompere i coglioni, non ci sto più. No, cioè, proprio no, cosa l'ho messo a fare? Intanto io sono d'accordo con te, però non tutti la pensano in quella maniera. Io ho 40 anni che faccio sacrifici per questo hobby, perché lo sapete tutti, lo sanno tutti, è chiaro che quando uno vive da uno stipendio e fa grandi sacrifici, lavorando, mettendosi da parte per avere un hobby consistente, come ho io, perché io ho tutto quello che serve per fare il CB e per fare il radioamatore, anche se il radioamatore non lo sto facendo, e poi vai a fare due chiacchiere, ti metto da ieri, cioè, gliel'ho detto anche in una maniera molto, molto tranquilla e molto educata, proprio perché ti ripeto, ne ho le scatole piene di bicicere con la gente, non me ne frega più niente. Ho detto guarda che stai perdendo tempo, perché stai mettendo la portante e io sento tutti e tutti mi sentono, quindi se la vuoi smettere va bene, se allora aumentava, poi metteva il bip, poi tornava a un segnale, poi ne metteva un altro, poi metteva il bip, si sentiva lo stacco del microfono, cioè, ma non serve a niente fare cose del genere, alla fine ci mettevamo a ridere con Tino e Luca perché veramente le facevano in solletico, a loro gli arrivava Santiago 8, a me mi arrivava 9+10, quindi sicuramente con l'apertura che c'ho io da quassù ero più favorevole, ma che sia da Sassari, che sia da qualche paese, che sia da dove cazzo sia, non sono cose, se ti dico che non stai disturbando nessuno, allora cosa la metti a fare? Per fare le prove di che cosa? Le prove di forza, ma per fare le prove di forza e disturbare le persone ci vuole un po' più di attrezzatura, quindi a buon intenditore poche parole. Avanti Marco. Sì, un bel di attrezzatura, un bel. Comunque è così anche in HF, ma lo stavo dicendo chi era, giusto, mi pare Gianfranco ieri, quando era, in 80 metri, vai lì, portante, cioè portante su ponti radioamatoriali, portante in HF, portante un po' in tutte le frequenze, cioè, ci sono anche radioamatori, forse vecchi anche, secondo me vecchi rancori anche ventennali, trentennali, magari anche quarantennali, no? Sai, magari i radioamatori proprio vecchi arrivati alla frutta che magari non hanno nulla da perdere, allora come quelli che andavano in 45 metri, no? Cioè, sapevano il rischio, no? di fare quell'attività eppure l'hanno reiterata nel tempo, addirittura quello che avevano beccato. la mattina gli hanno sequestrato tutto e dice che nel pomeriggio era rientrato con un'altra radio, sono ritornati e ha risequestrato tutto. In continente, ti ricordi, era successo, cioè due sequestri in uno stesso giorno e andava su 45 metri. Sì, ma mi ricordo quello che metteva la canzone Cirimella, ti ricordi, a 7070, quello l'hanno pizzicato, l'hanno castagnato forte. Ma ti ripeto, ognuno si prende le proprie responsabilità, Marco, però alla fin fine, che sia in banda amatoriale, che sia in banda CB, che sia in V o che sia in U, è una cosa, come dice Antonio, ho capito da Vigliacchi, perché stai disturbando non il singolo, ma tutto il complesso che c'è, tutto il contesto, insomma, chi vuole veramente fare due chiacchiere, chi vuole veramente ammazzare il tempo, tutto lì. E ti ripeto, ribadisco che ci vuole tanta attrezzatura per poter veramente disturbare, tanta attrezzatura. Ti posso garantire che ne ho visto e ne ho sentito tante, perché quello che hanno pizzicchiato, lo so anche da sua, ci avevo lineare da 3 kW, è chiaro che rompevo le palle a tutta l'altra Italia, capito, con grandissima attrezzatura. Ecco, quello era un disturbatore, però se lo poteva anche permettere di disturbare, ma quando ti dico guarda che non stai disturbando nessuno, smettila, mi dà fastidio il tuo bip perché sono in cuffie, e continuava, alla fine sei un imbecille proprio, capito? Perché, ripeto, per disturbare un QSO e per fare veramente danno ci vuole attrezzatura, cosa che magari molti non hanno. A me non mi interessa, la mia attrezzatura è ferma e quando la voglio usare la uso come la devo usare nei dovuti modi, non di certo per andare a rompere le palle alla gente. Vai a tu. Ma appunto, ma uno è pure un imbecille, cazzo, cioè ma ti pare che fai tipo una linea da 3 kg lo fatta succiarti nel puntatore per rompere le balle al prossimo? Ma mica sei caggio. L'hanno castagnato questo, non mi ricordo se era Centro Italia o Nord Italia, ma ti dico l'hanno castagnato forte. Mi pare, siccome era un uomo grande, gli hanno dato gli arresti domiciliari perché gli hanno fatto il processo penale, perché era un radioamatore molto conosciuto, eccetera, non capisco perché faceva queste stronzate, capito? Quindi è così, ma Marco, è così. Noi stiamo cercando, insomma, di tenere un po' in piedi questa 27. Io non ho nessun problema con nessuno, faccio due chiacchiere, magari sto sulle palle a qualcuno, ma non mi interessa, non mi riguarda. So che molta gente ascolta, mi riferiscono, mi telefonano, mi dicono, a volte si prendono, per dirlo in gergo molto porcaccione, catti per fischi di treno, perché dice quella posizione c'è la portante, quello subito si incazza, e questa posizione ci sono io, mi hanno incolpato, mi hanno detto, ma nessuno ha fatto nomi, nessuno, ci sono solo coincidenze. Quante volte c'è stata portante grossa e hanno accusato anche a me, e dalla parte alta, vi seguo io, Roberto e Antonello, non è che ci siano molte persone, quindi cioè, bisogna anche stare attenti adesso a come parliamo, a quello che diciamo, a quello che facciamo. Sta diventando una cosa un po' bruttina, dai, veramente, a me dispiace, io ho tanti amici, oddio, conoscenti che tratto, eccetera, ogni tanto me ne dicono una, ma sono solo delle pure casualità, capito? Non è che nessuno sta incolpando facendo, però ti ripeto, anche ieri c'è stata la solita cosa, l'altro giorno lo stesso, l'altra volta addirittura in PMR, una portante fortissima che riuscivo a passare per miracolo io con l'antenna esterna grande, quindi figurati, cioè che li vedi siamo, vabbè, pazienza. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ognuno si prende la sua propria responsabilità. Io ho un amplificatore da 2 kW dentro l'armadio, non ho nessun interesse di toglierlo, metterlo sulla scrivania per rompere le palle alla gente. Quando mi è servito l'ho usato, adesso non mi serve, rimane lì tranquillo, sereno. Quando sarà che ho voglia di fare qualche collegamento fatto fatto bene, vuol dire che lo toglierò. Per il momento, guarda, un baracchino semplicissimo, anche se molto ma molto professionale, per fare due chiacchiere va più che bene. Vai Marco. Bianco, per me, ce la risentiamo dopo se coincide, perché vado a farmi la doccia, dai, l'ho dovuta inventare a chi non va per Mueva, quindi avete scaldata l'acqua e l'ho dovuta inventare io la doccia e me la faccio così. Ok, dai, ce la risentiamo. Ehi, ciao Anto, qua siamo senza acqua, è mancata l'acqua, a meno che non sia ritornata adesso. E cosa ti volevo dire, Claudio? L'altro giorno avevo sentito anche dalla camera da letto, dal ricevitore in camera, che gli ha voci due ragazzini che stavano facendo un casino nero in PMR e arrivavano forti pure. Quanto ti arrivavano a te? Anto, quelli erano una rottura di palle. Stavo parlando con Emanuele, stavamo facendo delle prove, stava montando un'antenna piccolina, stavamo facendo delle prove, casa c'erano questi due bambini, ma io dico avranno 7-8 anni, non di più, giocando, facendo. Alla fine ho detto, ma scusate, ma andate a giocare con le bambole, con le biciclette, non so se mai sentito, questa frequenza è occupata, ci siamo noi CB di Sassari, oh, nulla da fare, niente da fare, continuavano imperterriti. Ma lì vedi, il problema di questo PMR che a noi ha assegnato il Ministero è un problema dei genitori, perché io capisco chi lavora in PMR, io, beh, tanto di cappello, perché anche l'altra mattina c'erano due che stavano lavorando, io li ho sentiti e sono stato zitto, stavo chiamando Emanuele e sono stato zitto, quando hanno finito ho chiamato Emanuele, ok, ci siamo spostati sul canale 23, perché chi lavora ha il diritto, ma non si discute, chi usa quell'attrezzatura per lavorare è assolutamente tanto di cappello. Ma cazzo, ma che i genitori comprino un oggetto del genere a dei bambini per giocare, ma quando ero piccolino io avevamo i walkie talkie, capito, che arrivavano da una camera all'altra per giocare. Cazzo, ma questi hanno tutti questi cinesi, questi buofanghi che arrivano sparatissimi, a me mi arrivavano più di Emanuele, capito? Esatto, esatto. Ma caspita, se li sentivi tu che sei laggiù e io li sentivo bene, quella non era roba omologata, giustamente, quelli erano baobao e roba del genere. Arrivavano belli forti, ma già sono spariti poi. Addirittura, aspetta, me ne sono ricordato adesso, l'altro giorno mi ha squillato quel close call, praticamente senza fare scansione ti trova chi parla da vicino, e c'erano due ragazzini, due bambini sempre, e stavano parlando sui 462 MHz. Quelli sono praticamente gli 888 di Baofeng, 888, quando li togli dalla scatola, hanno una programmazione che li fanno in fabbrica di prova e funzionano sui 462 MHz, e lì è un po' delicata la banda, se li beccano sono cavoli per i genitori pure. Io vorrei che si mettesse in funzione la macchina operativa come c'è sempre stata, per carità. Io vorrei veramente che si mettesse in moto e che facesse un po' di pulizia, perché è assurdo così, capito? Perché se a noi ci hanno assegnato una frequenza, una banda, dove possiamo usarla a tutti gli effetti, adesso veramente, perché prima no, ma adesso possiamo usarla e io ne sono consapevole perché la sto usando anche io, ok, non è possibile che ci siano questi bambinetti con questi, perché non sono giocattoli, è impossibile che siano giocati, perché io ho dei segnaloni, ma giocano a nascondino con Kitty Gosi, e lì il padre, i genitori devono essere consapevoli che non è un gioco, capito, non è un gioco, perché sono degli strumenti dove tu stai andando anche a disturbare, perché non ci dimentichiamo che le frequenze PMR sono assegnate anche ai vigili del fuoco e alla protezione civile, e quando c'è allerta meteo la protezione civile usa il PMR e tu, secondo la zona che sei, secondo la frequenza che stai usando, puoi anche disturbare l'operato della protezione civile, e in quel contesto lì puoi avere delle sanzioni penali, quindi bisogna stare molto molto attenti. Ma quello per il PMR, cioè modulando il PMR, quelli sono sui 4,62, quello mi pare il Ministero dell'Interno quella fetta di banda è assegnato. Quello che temo io poi è che se si smuovono le acque però, poi ci passiamo tutti, cioè fanno il giro di vite, allora cominciano anche a dire in PMR niente più antenne esterne, niente più potenze elevate, capito? Rompono le balle a tutti. Le zero le antenne esterne sono vietatissime. Buonasera. Questo lo sapevamo già, fra, non è che ci hai detto una novità, però è così, vabbè. A prescindere che siano vietate, se uno è consapevole di quello che sta facendo e l'uso è diciamo fatto bene, insomma, non vivi e lascia vivere, non ci siamo capiti. Ma il fatto che tu usi a 8 anni un portatile del genere, non omologato, comprato dal tuo genitore, perché sicuramente non sei andato tu a comprarlo, ok, è una cosa sgradevole un po' per tutti, per chi fa radio da tanti anni, tutto qua, quindi è così. Anche 446-900 rotti, 912, 912,5, mi sembra che ci siano i vigili del fuoco, quindi Marco non è che sei lontano, sempre frequenta PMR, perciò bisogna stare molto attenti e consapevoli di quello che si usa e soprattutto la potenza che si usa, tutto qua. È chiaro che io uso il mio portatilino amatoriale, non nascondo, con un'antenna piccolina che ho a parte e basta, ma se dovessi usare l'antenna grande che ho sul tetto a 40 metri di altezza con le radio che ho, è chiaro che vado a rompere le palle a tutti quelli che magari o sono a fianco o sono un po' più alti di frequenza o un po' più bassi, tutto lì. Ma a prescindere, ognuno, ripeto, si assume le proprie responsabilità. Il fatto è che bisogna avere un pochino più di educazione e far sì che l'operato radiantistico rimanga un po' più pulito, perché si sta sporcando tantissimo da tutte le parti, che sia la CB, che sia la banda amatoriale, da tutte le parti. Ciao Gianfra, buonasera. Io ho un altro passaggio, poi vi lascio, vado a cenare, avanti. Sì, ciao Claudio, buonasera a tutti. Buonasera Marco, hai fatto colazione? Naturale, con le lasagne. Aspetta un attimo. Oioia. Adesso vabbè, a parte gli 888, no, che nascondono 2 watt, 5 col cavolo, 2 sono poi. Anche di quei portatilini simil brondi, no, quelli proprio da mezzo watt, che vendono da AliExpress, dai siti cinesi, ci sono 2 versioni, che ne so, te ne dico uno a caso, Retevis 388, no? C'è la versione 8 canali PMR europea, ma c'è anche la versione, sempre con potenze basse presumo, 22 canali, che è FRS e GMRS, cioè la versione americana, e funziona sui, mi pare, 462 e 465. E molti non sanno nemmeno cosa stanno comprando. E su questi siti AliExpress, questi portatilini Retevis, ce ne sono tanti modelli, ma anche tanti colori, rosa per bambine, azzurri, celesti, gialli, insomma, e vengono venduti come ricetrasmittenti per bambini, c'è scritto Kids Walkie Talkie, ecco, così, vai Gianfra. Ma comunque la gente veramente non legge le cose, perché in realtà la legge dice, allora, primo che non c'è protezione, e non c'è protezione nel senso che non c'è un controllo per questi apparati, per il semplice motivo che dovrebbero andare con i 500 milliwatt e boh, con antenna amovibile, quindi anche se tu c'hai un portatile da 500 mW, però poi togli l'antenna, non è più classificato PMR, capito? Quindi è un casino. se ti pizzicano ci sono sanzioni molto pesanti. Poi la quarantena esterna significa che se disturba anche il servizio qualcuno intorno. In 10 minuti lo trovano, perché il WHF lo sappiamo come è fatto. Se ne fanno una zona alta con il famoso furgoncino, puntano e ti acchiappano, perché è molto facile, facevano nei tempi che furono, non so se Claudio se lo ricorda, facevano anche così la caccia alla porta. Riprendi Claudio. A me lo dice, nell'87-88 si piazzavano qua in via Milano al rifornitore col telescopico, come schiacciavo la portata e mi suonavo la campanella, a me lo dici. Io sono diventato radioamatore nella carta, e sottolineo nella carta, perché io non sono un radioamatore nella carta, ok? Non faccio nessun tipo di attività, non mi interessa farla e non l'ho mai fatta. Ho fatto una spesa perché volevo iniziare a farla, ma poi no, non l'ho fatta, quindi io sono radioamatore nella carta. È proprio nella carta che io ho voluto prendere quel pezzo di carta per non aver rotto le scatole, solo per quello, non per fare assolutamente altro, capito? Per potermi comprare quello che mi pare piace e per poter tenere quello che mi pare piace. Però in quel periodo lì, quando io non ero radioamatore, ce l'avevo alle calcagne tutti i santi giorni, perché purtroppo ero un grandissimo piratone, lo sottolineo, non ho peli la lingua a dirlo, ero un pirata, avevo tutto, avevo le V, avevo le U, avevo gli HF, avevo tutto, non avevo baracchini ma avevo di tutto e di più, quindi è chiaro che mi hanno, diciamo, quasi graziato, anche mi sono accorto che era arrivato il momento di potermi mettere in regola come i cristiani, visto che la passione era tanta, e così ho fatto, ma sempre nella carta, e sottolineo nella carta. Per il resto io grandissimo rispetto per i radioamatori che fanno l'attività che fanno. Io non la faccio, però purtroppo la licenza, la patente ce l'ho, e ce l'ho solo per avere la detenzione delle radio, non di certo per l'uso. Dopo questo io vi saluto perché mia moglie mi ha già chiamato. Un abbraccio a tutti, anche a chi sta ascoltando. Spero di essere stato chiaro, corretto, pulito e ordinato. E cambio per te Marco, ascolto i finali e chiudo la baracca. Ciao. Meia, chiaro e circonciso, come diceva Frassica, o chi era? Meia. Bene Claudio, io mi sono mangiato un dolcetto nel frattempo. Dai, sentiamo alle prossime, quando entrerò, perché sono molto incostante per una ragione o per l'altra. Alla fine qua ci sono sempre casini, cerca di capire, genitori anziani. Ok, ho detto tutto. Riprendi Gianfranco per i saluti. Sì, ciao Claudio. Alle prossime. Buona, come si dice? No, buona cena. Perché forse sei già uscito a portare lì il cagnetto. Ok, Marco, poi chi c'è? Sono voi due, ciao. Sì, allora in principio Dio creò il cielo e la terra. No, in principio c'era Roberto, l'ho beccato per caso sul 10, stavo premendo a vedere se ancora c'era l'antenna sul tetto, e c'era ancora. Abbiamo attaccato il bottone, poi è entrato Claudio, poi è entrato Bombolo, Roberto ha chiuso, Bombolo ha chiuso, insomma sì, eravamo rimasti noi due, credo. Più 1000 ascoltoni ovviamente. Vai Gianfra. Milomi, vabbè, tu rientrato? No, pa, mi sono fatto la doccia, me l'ho inventata io. Ho preso un bidone di acqua da deposito che abbiamo nel posto. L'ho riempito, poi ho preso una bacinella, ho messo a scaldare l'acqua, l'ho messa dentro, mi sono fatto una bottiglia con i buchi e mi sono fatto la luce. Al quindi sei anche tu senza acqua? Scappa, senza acqua sì. Ehi, Gianfranco, da... ah no, tu hai il pozzo, niente. Gianfranco è già, è tipo prepper, è già tutto predisposto lì. Riprendi Gianfranco. Gianfranco, sennò avrei tutta vita. Già siamo in guerra con questi signori, figurati se siamo anche d'acqua poco a poco, cosa succede? No, tutto da posto, sennò è un disastro, noi non stiamo usando l'acqua, cioè c'è proprio il contattore spento e ogni mese arrivano 100, 120 eccetera, già da un anno. Guarda, è una cosa che vuole solo vista di quei delinquenti. Se non ne abbia pagato. E infatti non ne paghiamo, è tutto in mano al coso, al patronato. Avanti Marco. Sì. Allora, dove la mia acqua? Sparita la bottiglia dell'acqua, è molto grave. Gianfranco, ti volevo chiedere, siccome poi si scornano sui forum anche tra radioamatori, com'è la questione della detenzione? Cioè, detenzione, che ne sono un portatile, cioè quando è che configuri una stazione completa? Quando stai installando, per esempio, in un portatile l'antenna e la batteria anche, no? L'alimentazione, giusto? Se uno ce l'ha nella scatola tutto smontato, per dire, quella è valida come detenzione oppure no? Perché anche tra radioamatori tipo Roger K, Rifidenza, si scornano su questo argomento. D'altronde uno dice, se la vendita è libera anche la detenzione, però detenzione non vuol dire averlo acceso, collegato anche alla batteria, all'antennino. Vai Gianfranco. Oh, sono uscito? Sì, sei uscito. Forse Gianfranco, forse si è allontanato un attimo. E via. Secondo me se uno la può tenere, basta che non trasmetta, lo può tenere lo stesso. Se uno si va derivati su e può tenere tutto. E tipo solo che se uno lo compra, se lo accende, sempre quello è. Nemmeno l'ascolto si potrebbe fare, che ne so, con un Baobao, no, che ormai c'erano tutti, credo che ci siano più Baofeng che macchine in giro ormai. Sì, Marco, scusa, forse mi hai chiamato, però qua siamo sempre in emergenza perché c'è un vento micidiale e a volte manca la luce, adesso sono sotto gruppo. Cosa mi stai chiedendo? Aspetta che mi sono perso. No, la detenzione, quando uno si compra di queste radioline che non sono PMR, no? La detenzione vera e propria, cioè lo devi tenere chiuso in scatola, appunto. Una volta che tu colleghi l'antenna e l'alimentazione, non è più detenzione ma è uso, giusto? Così sembrerebbe, quello sì. Ha comprato o te lo puoi comprare, non è più come una volta che ci mettevano dentro solo per averlo. Però poi se è acceso eccetera ti possono diventare uso, capito? Quindi è un problema. E poi sai com'è? Ma ti fermavo 50 volte e non mi frega niente perché c'è il poliziotto e il carabiniere che non se ne intende, non vuole compilare carte. E il giorno capita magari quello che era di amatore, ci sono tantissimi che se ne intende e ti fa il culo a essere, tutto lì. Stai parlando dei Baofeng? Sì, una radio a caso di quelle lì, dai, tanto poi sempre Baobao sono me. No, naturalmente non parlavo sì. No, sempre che perché tuttora su Roger K, su Arifidenza, ci sono radioamatori con tanta esperienza che si scornano ancora sul fatto che sia libera la detenzione o no. uno dice, ma d'altronde se l'acquisto è libero, è libera anche la detenzione, però detenzione vuol dire chiuso in scatola, non con antenna e batteria installata. Una volta che installi antenna e batteria, sai, è una vera stazione radio funzionante, non si dovrebbe nemmeno ascoltare in teoria. Con ricevitore. No, è un ricevitore, cosa c'entra il ricevitore? Il ricevitore, gli unici limiti sono quelli della frequenza che ascolti, ma ammesso che ce ne sia ancora che puoi ascoltare. No, il ricevitore l'ho detto alla fine aggiuntivo, no? Come per dire, col ricevitore si può ascoltare, ma qualcuno dice, ma io me lo compro per ascoltare, solo per ascoltare, però poi a portarli fuori guai, no, no, assolutamente, tantomeno in movimento, o peggio col collegato all'antenna veicolare, no, no, casomai... Niente, non dico altro. Ma cosa ti dipende se lo si può usare? Guarda Marco, quasi tutti i Baofeng penso non si possano usare.